diciamo che nel primo quadrimestre del 2011 segna un dato molto positivo sul 3D. Abbiamo delle isole dedicate perché è fondamentale che il consumatore oggi tocchi con mano il prodotto che sta acquistando. Si vende pressoché il TV col corredo dell'occhiale per far conoscere, diciamo, la tecnologia al consumatore. Chiaro che noi speriamo sempre, e nel lato di vendita noi lo spieghiamo sempre, che il futuro del 3D è importante perché ci saranno molti altri apparecchi che si legano proprio alla tecnologia 3D. Ma poi ci sono i contenuti per i TV 3D? Il supporto oggi viene un pochino a mancare. Se diamo un'ottima offerta sul televisore, nei vari marchi, nelle varie quote di mercato, facciamo un pochino fatica a dare l'offerta poi del supporto che il consumatore può, diciamo così, apprezzare vedendo la tecnologia 3D. Ci sono cartoni animati in 3D, però a livello di film, diciamo, di interesse o di videogiochi siamo ancora un pochino deboli, insomma.